America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, una notizia, direi dirompente, in arrivo dagli Stati Uniti, ha creato scompiglio all'interno del conclave, perché l'arcidiocesi di Los Angeles ha patteggiato 9,9 milioni di dollari come risarcimento a quattro vittime abusate dal prete pedofilo Michael Baker. L'arcidiocesi era guidata un tempo dall'arcivescovo Roger Mahoney, che fa parte del conclave. La sua presenza era stata contestata da alcuni, ma alla fine era stato ammesso a far parte dei 115 cardinali che dovranno decidere chi sarà il nuovo papa. La storia è complessa, è una storia che risale addirittura al 1986. Mahoney era stato accusato di aver protetto Michael Baker, di essere stato poi indulgente con lui, di averlo inviato in una clinica psichiatrica quando si era capito che aveva abusato di molti bambini, e a un certo punto, quando uscì dalla clinica, Mahoney lo riassegnò a un'altra parrocchia, dove poi Baker ha continuato ad abusare di minori. È stato poi condannato a 10 anni di carcere nel 2007, ma la polemica è un'altra. Ricorderete, in generale lo scandalo dei preti pedofili è stato così, ha colpito molto l'America. Si calcola che complessivamente siano stati abusati circa 500 minorenni. It's the oldest enduring electoral system in the world, and many of its traditions have been unchanged for centuries. The conclave. Era inevitabile aprire su questa storia, una storia di news, perché l'America comunque ieri, prima di apprendere questa notizia, è rimasta incollata davanti ai televisori a seguire l'avvio del conclave, la processione dei cardinali. Continuano ad essere incollati ai televisori questa mattina all'avvio delle news, e per la prima volta gli americani hanno la speranza che chissà, forse un loro cardinale ce la possa fare. Questa notizia, questo sviluppo potrebbe creare qualche problema, però resta il fatto che l'America è una delle più importanti chiese cattoliche del mondo. Dates back to a time when cardinals were locked in until they chose a new pope. L'Economist ha valutato che la chiesa americana dal punto di vista economico vale il 60% del complesso economico, del balance sheet, del patrimonio della chiesa totale. Ma poi gli Stati Uniti sono anche il quarto paese per numero di cattolici nel mondo. Sono 74,4 milioni sono cattolici, 100 milioni sono stati battezzati. Pensate che nel 1906 i cattolici negli Stati Uniti erano il 17% della popolazione, oggi sono il 24%. Dunque c'è stato un impatto molto forte, non solo all'inizio del secolo con l'immigrazione italiana, ma con la straordinaria crescita negli ultimi 20-30 anni dell'immigrazione latinoamericana. Dunque il cattolicesimo in America sta benissimo e segue con grande attenzione quello che sta capitando a Roma. America 24. Viene con me in linea ai microfoni di America 24 per discutere della Chiesa Cattolica Americana e delle sue ambizioni per avere magari, chissà, un papa americano al Vaticano. Maurizio Molinari, corrispondente della stampa negli Stati Uniti, nostro graditissimo ospite abituale. Buongiorno Maurizio. Buongiorno Mario. Allora, insomma, abbiamo avuto la notizia ieri sera, improvvisamente, questo patteggiamento per 9,9 milioni di dollari per il risarcimento a queste quattro vittime. Ecco, cosa significa questo? Rafforza la Chiesa americana perché si dimostra trasparente vis-à-vis le altre chiese mondiali, o la indebolisce? No, io credo che la rafforzi, perché conferma la scelta strategica fatta dalle chiese americane in più occasioni di fronte agli scandali di ammettere lì dove c'è stata responsabilità e di risarcire le vittime, puntando a distinguere fra chi ha commesso dei reati di fronte alla legge e di fronte a Dio, invece il resto della Chiesa che resta sana, vivace, vibrante. Hai visto anche tu come tra ieri e oggi, insomma, gli americani erano incollati al video a vedere quello che succedeva a Roma? Non succede spesso, hanno dato molto più attenzione a quello che ai risultati delle nostre elezioni, è vero o no? Sì, e io credo, hai ragione Mario, io credo che il motivo sia che in questa occasione davvero gli americani sentono dentro la possibilità che uno dei loro possa vincere, uno dei loro cardinali possa farcela. C'è grande stima nei confronti di Dolan, l'arcivescovo di New York, di O'Malley, il volto dei cattolici di Boston, l'umile Malley e l'efficiente Dolan. Insomma, l'America sente che questa volta può avere davvero diritto al pontefice. Ecco, allora Maurizio, vediamo di esaminare questi due personaggi, perché sono due personaggi intanto diversi fra loro e poi soprattutto molto diversi dal Papa che si è ritirato, da Benedetto XVI. Ecco, secondo te, fra i due, come pensi che andrà a finire? Ciò che li accomuna è la volontà di ricostruire la Chiesa dopo la stagione degli scandali. La Chiesa americana si sente un po' vittima di questi scandali, ritiene che siano avvenuti in gran parte per responsabilità che non sono sue, che abbia dovuto pagare un prezzo molto alto, anche economico a livello di diocesi, per una gestione sbagliata di questa vicenda che non è dipesa da lei ma dal clero romano. E quindi il cuore della Chiesa americana dice: fate fare a noi, possiamo essere noi a ricostruire dal di dentro la Chiesa cattolica, ne abbiamo la forza, lo spirito, la volontà, che poi è l'approccio pionieristico grazie al quale l'America si risolleva sempre dalle fasi di difficoltà. E certo sono molto diversi, uno è un arcivescovo d'arrembaggio, molto bombastico, molto spumeggiante come Dolan, invece l'altro è il davvero l'umile O'Malley, quello che ha saputo sanare le ferite di Boston. Però dietro c'è questa comune lettura americana. Possiamo essere noi la Chiesa anglosassone a ricostruire la Chiesa. Però si è sempre detto, no, un Papa americano non è possibile, non è neanche immaginabile un Papa americano nell'era della superpotenza americana, quando c'è già un presidente americano che domina viaggiando per il mondo sul suo Air Force One. Ecco, è ipotizzabile? Resta questa resistenza al Papa americano solo perché è americano, l'America è superpotenza? Ma guarda, anche se dovesse resistere, la realtà che conta è quella dei numeri che tu all'inizio della trasmissione citavi, cioè questo è un paese sempre più cattolico. Nel mondo le vocazioni ai cattolici crescono nei paesi, nelle economie emergenti e negli Stati Uniti, grazie alla presenza degli ispanici. Sotto questo punto di vista l'America è anche un paese ispanico, e quindi naturalmente se il Papa deve rappresentare le realtà in crescita nell'universo dei cattolici, si tratta di fare riferimento al Sud America o all'Asia o agli Stati Uniti. C'è anche un discorso, diciamo così, ideologico. La Chiesa cattolica romana di estrazione, diciamo, italo-europea e anche sudamericana, ha sempre avuto un atteggiamento duro nei confronti dell'economia di mercato, del capitalismo, ha attaccato, tra virgolette, i ricchi. Posizioni che hanno spesso irritato la Chiesa cattolica americana, ci sono state polemiche tra il Consiglio dei Vescovi americani e il Vaticano. Ecco, se dovesse passare un Papa americano, beh, forse ci sarebbe anche un cambiamento di atteggiamento nei confronti del mercato da parte della Chiesa cattolica. Non pensi che sarebbe un bene? Sì, sicuramente, perché aiuterebbe la Chiesa cattolica a entrare del tutto nel XXI secolo. XXI secolo è un po' più di calvinismo, forse non fa male. Assolutamente, però aggiungerei anche che io credo che dietro questa grande attenzione americana che noi stiamo vivendo per questo conclave c'è anche un po' il sogno e la possibilità che ci sia un Papa nero. E mi ha sorpreso molto, io sono stato pochi giorni in Italia e in Italia si parlava molto di Scola come grande candidato in pole position. Appena sono arrivato, i primi newyorkesi che sapevano che ero stato a Roma mi hanno detto: dice, ma Maurizio, ma allora vince uno dei due candidati neri? Questa differenza di percezione mi ha colpito molto e mi ha fatto percepire questa voglia quasi spontanea, no, dell'America di dire: sì, noi abbiamo avuto il presidente nero, adesso anche il Vaticano può fare lo stesso. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Dopo 15 anni di assenza i Van Halen torneranno a suonare in Europa. Il tour partirà alla fine dell'anno, dovrebbe prevedere 50-60 tappe. Dei Van Halen, Jump. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!